Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Wuthering Heights, Cime Tempestose, è l'unico romanzo mai pubblicato dalla scrittrice britannica Emily Bronte. Quando esce nel 1847 non viene accolto molto bene dalla critica, troppo moderno forse, costruito secondo una struttura a matriosche, dove un personaggio racconta di altri personaggi che a loro volta raccontano di altri personaggi ancora. Tanto che addirittura viene considerato per molto tempo un'opera giovanile e meno matura di Charlotte Bronte, sorella di Emily, autrice del più famoso e apprezzato Jane Eyre. Rivalutato solo molti anni dopo, oggi è considerato un capolavoro della letteratura inglese per la sua incredibile originalità. Le vicende di Heathcliff e del suo amore per Catherine, una passione dannata che li porta entrambi a distruggersi e a cercarsi anche oltre la morte, ispirano negli anni molti adattamenti, diversi film, sceneggiati radiofonici, persino un musical, tutti ugualmente passionali, drammatici, ricchi di colpi di scena. Dimmi dov'è mia moglie. È andata da Heathcliff. Ha approfittato della tua assenza per correre da lui. Sono andato via per essere degno di te, per tornare come tu mi volevi. Non dovevi, io ti amavo così com'è. Tu ti vergognavi di me, ti sentivi degradata a starmi vicino, ricordi? Quando l'ho detto ero solo una ragazzina confusa, non lo pensavo. E allora torna con me. Edgar mi ama, io non posso tradirlo. In tutta la sua vita lui non ti potrebbe amare quanto ti amo io in un solo attimo. È così, Catherine, il mio destino è il nostro destino. Il destino ci ha separati. No! No, lo sai benissimo! Se io sono tornato è perché tu l'hai sperato, perché lo volevi! Mi hai chiamato tutte le notti e io ti ho sentita. Qualcuno sta guardando il film Cime Tempestose alla televisione, nel salotto di casa sua. È una ragazzina di solo 10 anni. Non dovrebbe essere un genere che la appassiona poi tanto. È una storia da romanzo d'appendice dell'Ottocento, più adatto a sua madre, forse, o a sua nonna. Ma lei ne rimane colpita ugualmente. In particolare c'è un momento che le resta impresso in maniera indelebile. Quando sul finale il fantasma di Catherine bussa disperatamente alla finestra del narratore, Mr. Lockwood, perché le permetta di entrare in casa e chiedere perdono al suo innamorato Heathcliff. È una scena forte, emozionante, e la ragazza la vive con un trasporto particolare. Tanto che quella notte non riesce nemmeno a dormire e la mattina dopo decide di leggere immediatamente il libro di Emily Bronte. Quando scopre che l'autrice è nata il suo stesso giorno, il 30 luglio, sente un brivido lungo la schiena. Sarà una semplice coincidenza o qualcuno le sta dicendo qualcosa? Quella ragazzina passa nuovamente la notte in bianco più o meno 8 anni dopo, ma stavolta lo fa per un motivo diverso. Mentre dalla finestra di camera sua osserva la luna piena che illumina il cielo notturno, compone una canzone. Bastano poche ore. Testo e musica scorrono fluidi a creare qualcosa di assolutamente unico. Heathcliff, sono io, Katie. Ho così freddo. Lasciami entrare dalla tua finestra. Sto tornando a casa alle mie cime tempestose, le mie cime tempestose. Lasci che strappi via la tua anima o fammela avere. Non è la prima volta che questa ragazza compone una canzone. Nonostante abbia solo 18 anni, in realtà ne ha già scritte tantissime perché lo fa da quando aveva appena 11 anni e con una passione e una dedizione impressionanti. Questa ragazza è la protagonista della nostra puntata di oggi dei Magnifici Destini e il suo nome è Kate Bush. La sua è una vicenda incredibile e per raccontarvela iniziamo facendovi ascoltare un brano che fa parte della storia della musica mondiale. You can't have any police! Let me know, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, anno 1979. Un brano che segna un'epoca, una delle band più influenti nel panorama musicale mondiale per una delle canzoni di protesta più alternative, originali, riconoscibili. L'assolo di chitarra finale, realizzato con una Gibson Les Paul Gold Top del 1955, è opera di colui che è considerato uno dei più influenti e celebri chitarristi del rock, David Gilmour. Personaggio estremamente eclettico, compositore, cantante, arrangiatore, ma anche pilota e fondatore di una compagnia aerea, la Intrepid Aviation, che vanta un museo di aerei d'epoca tra i più vasti del mondo, Gilmour fin dai primi anni della sua carriera di musicista alterna la professione di chitarrista a quella di scopritore di talenti e produttore. Che cosa abbia a che vedere con Kate Bush? Beh, è lei stessa a raccontarcelo. Quando avevo circa 14 anni c'era un amico di mio fratello, Ricky Hopper, che lavorava nel settore discografico. Conosceva un sacco di gente e aveva questa abitudine di far sentire le demo in giro. Conosceva Dave Gilmour dei Pink Floyd, che a quel tempo cercava nuovi talenti da lanciare. Sentì alcune cose che avevo scritto e cantato e gli piacqui. Abbiamo sentito bene. Kate ha solo 14 anni e ha già composto e cantato alcune canzoni che piacciono niente meno che a David Gilmour. Insomma, possiamo dire una bambina prodigio. In realtà Kate nasce e cresce in una famiglia estremamente musicale. Nella mia casa si ascoltava continuamente musica. È una cosa che, si può dire, ricordo da sempre. Specialmente i miei fratelli. E avere intorno a te un'atmosfera così ti ci fa entrare dentro. Noi poi cantavamo e suonavamo tutti insieme. Mio padre è un medico, ma suona il piano. E anche lui ama molto la musica. Padre inglese e un medico e madre irlandese, una ex ballerina di folk music, due fratelli più grandi, John e Paddy, entrambi musicisti. Kate ha solo 11 anni e inizia a prendere lezioni di piano e poi di violino. Il garage dietro casa diventa il suo studio privato ed è qui che Kate compone nel giro di circa 3 anni qualcosa come 50 canzoni. Una selezione di questa vastissima produzione diventa la demo che finisce sulla scrivania di David Gilmour. Kate è giovane, forse troppo, ma Gilmour sente che non è giusto penalizzare un talento come il suo solo a causa della sua giovane età. E quando i due si incontrano, se ne convince ancora di più. Quella ragazzina è davvero speciale e, benché giovanissima, ha un talento e una determinazione da adulta. È per questo che decide di produrla, diventando per lei il primo magnifico destino della sua esistenza e della sua futura carriera musicale. Non solo David Gilmour, ma anche i dirigenti della sua casa discografica, la EMI, ritengono che Kate sia veramente troppo giovane. Sia nel caso che la sua musica faccia un flop, sia in quello più auspicabile e anche probabile che abbia successo, dubitano che Kate abbia già la maturità adeguata. Anche perché ci tengono particolarmente a lei. Non è un personaggio da gettare nell'arena allo sbaraglio cercando di realizzare quanti più proventi economici possibile, col rischio di bruciarla. Kate appare a tutti fin da subito come un incredibile artista sulla quale investire a lungo termine. Firmai un contratto, ma pensarono che non ero ancora in grado di gestire la cosa. Ero troppo giovane. Non conoscevo l'ambiente della discografia e tutti temevano per me. Anche perché era un progetto da sviluppare nel futuro, secondo loro. E mi volevano dare del tempo. E io quel tempo lo usai per studiare tante cose, non solo musica. Parlando di Kate Bush, non bisogna fare l'errore di procedere secondo schemi prestabiliti. Lei è una strana, direbbero in molti, ma è una vera artista, non c'è alcun dubbio. La sua particolarità risiede in qualcosa che lei ha ben chiaro in mente. L'arte non procede per compartimenti stagni. In lei la cantante si interseca con la musicista, con la compositrice, ma ancor più con la performer a tutto campo. Kate è fermamente convinta che di fronte a un pubblico l'artista debba fare di tutto per realizzare uno spettacolo completo. E ha in mente qualcosa di particolare, come insito nella sua natura, frutto di contaminazioni di ogni genere. Ascoltavo soprattutto la musica che ascoltavano i miei fratelli, i Pink Floyd, gli Stones, certo, i Beatles, la musica contemporanea. Però ascoltavo anche la musica folk inglese e irlandese, quella che mi facevano sentire i miei genitori. E poi mi piaceva la danza e certi sport, come per esempio il karate, che trovo molto interessante. Kate ha davanti a sé un periodo di un paio d'anni che per contratto con la EMI le viene concesso per studiare, per creare il proprio personaggio, secondo il suo personalissimo gusto. Anche se così giovane, le viene data carta bianca. È così che lei, per definire meglio chi ha intenzione di diventare, decide di prendere lezioni da qualcuno che sicuramente saprà tirare fuori da lei tutte le sue potenzialità espressive, saprà insegnarle come muoversi, come diventare un personaggio assolutamente unico. Lindsay Kemp. Elizabeth! Elizabeth! Essex has abused you, has betrayed you, has undone you. Essex is approaching. Le varie arti unificate, il mimo, la danza, la musica, il canto e perfino lo sport, concorrono a creare un personaggio a cui il pubblico possa credere. Tu agisci come se fossi, che so, la donna più bella del mondo, e lo diventi, e il pubblico ci crede. Oppure crei un alone di mistero intorno a te, ti muovi, ti comporti in modo tale da renderlo palpabile, questo mistero. La personificazione del sogno sul palcoscenico. Questo è il grandissimo Lindsay Kemp. Attore, ballerino, mimo, coreografo di fama mondiale, Lindsay Kemp è notissimo sia per le sue interpretazioni meravigliose, sia per le sue incredibili coreografie, per la fantasmagoria dei costumi, lo spessore dei suoi personaggi, che non parlano con la voce ma con tutto il corpo. Non tutti forse sanno però che è anche un meraviglioso insegnante e ha tra i suoi allievi più famosi il multiforme David Bowie, che a lui deve sicuramente moltissimo. Quando iniziai a studiare con Lindsay, non sapevo che fosse stato insegnante di David Bowie. Dopo alcune settimane, mentre mi allenavo, sentii delle persone che parlavano di Bowie, e allora sono venuta a saperlo così. In realtà ho scoperto Lindsay Kemp per puro caso. Ero andata a vedere un suo spettacolo, Flowers, e ne rimasi sconvolta. Non avevo mai visto nulla di simile. Usava il movimento per esprimere qualcosa di fantasioso, senza nemmeno una parola. Pensai che la combinazione di quei movimenti con la musica sarebbe potuta essere una tipologia di performance estremamente interessante. Kate sta ancora frequentando la scuola. Di mattina ci sono le lezioni. Al pomeriggio, dopo i compiti, inizia ad allenarsi con Lindsay Kemp. Di danza non ne sa assolutamente nulla, ma le piace moltissimo e soprattutto accumula conoscenze. Quello che cerca è una sua identità precisa. Kate è minuta, molto magra, sembra quasi un elfo dei boschi. Ha un viso dolcissimo, con due grandi occhi espressivi, circondato da una folta capigliatura castano scuro. Le movenze che impara da Lindsay tendono a sottolineare queste sue caratteristiche, che la rendono unica, misteriosa, una creatura spesso impalpabile, sfuggente, abbigliata in maniera strana. Una via di mezzo tra una fata e una piccola streghetta buona, ma che ogni tanto tira fuori le unghie e graffia. Lindsay Kemp rappresenta sicuramente un magnifico destino nella carriera di Kate Bush, fra le pochissime artiste al mondo che viene considerata una performer globale, capace di realizzare uno spettacolo non solo di musica, ma di danza, di interpretazione visiva, di arte nella sua totalità. E queste sono tutte doti che Kate apprende durante le lezioni con il grande coreografo, delle quali farà tesoro costantemente lungo tutto l'arco della sua carriera. Tutto questo studio, questo approfondimento che abbraccia non solo la musica, ma anche la danza, lo sport, perfino la storia dei costumi teatrali che tanto affascinano Kate, portano la giovanissima cantante a maturare. E tutto questo costruire mattone su mattone la sua carriera sfocia in qualcosa di veramente grande. La storia di Cime Tempestose che conosce da bambina si riaffaccia alla sua mente al culmine della sua preparazione. Da questo momento in poi la sua strada è segnata. Ero davvero piccola. Avevo solo 10 anni e quella scena del fantasma di Catherine che bussa alla finestra per entrare mi colpì tantissimo. Era molto tardi quella sera, probabilmente mi fece anche paura. Per anni ha continuato a martellarmi nel cervello, specialmente quell'immagine visiva delle sue mani che battono sul vetro. Era l'argomento perfetto per una canzone, così passionale. Kate scrive Wuthering Heights in poche ore mentre osserva la luna che illumina la sua camera avvolta dal buio. Ha 18 anni e si sente finalmente pronta ad affrontare la sua nuova vita. La sua carriera di cantante sta per incominciare, ne è certa. Quando il giorno dopo fa sentire il suo brano ai familiari, ne rimangono tutti affascinati e la spingono a presentarlo immediatamente alla Amy e a Dave Gilmore. Kate sta pensando quale sia il modo migliore per trasmettere quello che ha provato e quello che quel brano rappresenta per lei. La passione di un amore talmente forte da volere sconfiggere addirittura la morte. Poi ha un'intuizione. Il racconto deve essere in prima persona. A parlare è Catherine, la sua omonima, la protagonista di Cime tempestose, frutto della fantasia di Emily Bronte, quella meravigliosa scrittrice nata il suo stesso giorno. Una serie di coincidenze che a lei piace pensare siano qualcosa di più. Nella canzone ho deliberatamente alzato il tono della mia voce naturale per rendere quel timbro che mi pareva essere più adatto ad un fantasma. In realtà la mia voce è più bassa, molto meno acuta, ma non ho avuto problemi a cantare in questa specie di falsetto. La ragazza è pronta. Questo pensano David Gilmour e il suo amico e produttore della Amy, Andrew Powell. Wuthering Heights è un brano eccellente, ma Kate ne ha una quantità impressionante. Una produzione che supera i 200 titoli. L'album di debutto, The Kick Inside, contiene ben 13 brani tutti composti interamente da lei, alcuni quando aveva non più di 13 anni. Lei, che ha un bel caratterino, si fa sentire subito, come ricorda suo fratello John. Mia sorella ha sempre saputo quello che voleva, fin da molto piccola. Quando fu pronto il suo album di debutto, si dovette decidere quale delle canzoni dovesse essere il singolo di lancio. I produttori optarono per James and the Cold Gun, ma lei non ne volle sapere. Si intestardì che doveva essere Wuthering Heights. Loro dicevano che era un brano difficile, musicalmente strano, con un testo particolare, poco adatto al grande pubblico, a diventare una hit. Ma lei fu dura e non si fece convincere. Beh, ha avuto ragione lei. Alla sua uscita nel gennaio del 1978, il singolo Wuthering Heights raggiunge immediatamente il numero uno nelle classifiche di Gran Bretagna e Australia e diviene una hit mondiale che trasforma Kate Bush in una star. Non solo, è la prima artista donna a raggiungere la prima posizione nelle classifiche inglesi con una canzone da lei stessa composta. Il suo stile è unico, inconfondibile, personalissimo, che da quel momento in poi si impone all'attenzione del pubblico di tutto il mondo. Non senza una certa sorpresa da parte della diretta interessata. Sono impressionata. Speravo che potesse suscitare una qualche reazione, che potesse piacere, ma la vastità e la velocità con cui si è affermata è del tutto incredibile. Mi fa sentire piccolissima. Ha portato anche me sulle cime tempestose. I magnifici destini. Unbelievable, incredibile, canta la nostra protagonista dei magnifici destini di oggi, la magica e straordinaria Kate Bush. E il suo si può davvero definire un debutto incredibile. Da ragazzina prodigio, scoperta da David Gilmour, chitarrista dei Pink Floyd a 14 anni, a prima cantante donna ad avere una hit in cima alle classifiche inglesi con Wuthering Heights, suo singolo di esordio nel 1978, quando di anni ne ha appena 20. Ritrovarsi così giovane con un successo tanto strabiliante fra le mani può non essere una cosa facile da gestire, ma Kate dimostra una maturità davvero rara per la sua età. Non solo compone, canta, suona, balla, ma gestisce il proprio essere artista. E benché si faccia consigliare da parenti e collaboratori, è lei che tiene tutto sotto controllo e che dirige la sua carriera. È un ricordo che a distanza di anni ancora colpisce molto Del Palmer, il chitarrista di Kate Bush. Oggi lo diamo per scontato che le donne si producono da sole, scrivano la propria musica, siano responsabili di se stesse, delle proprie aziende, eccetera. Ma nel 1978 tutto questo era assolutamente sconosciuto. Lei è stata sicuramente una pioniera, una vera pioniera. Il perfezionismo che caratterizza l'arte di Kate, quel suo volere avere il controllo di tutto, essere presente e decisionale in ogni aspetto del suo lavoro, fa sì che la cantante preferisca il lavoro in sala di registrazione e il rilascio di dischi e soprattutto dei relativi video, piuttosto che le performance live, dove è chiaro che un certo margine di imprevisto c'è sempre. Ma la casa discografica spinge perché Kate Bush organizzi un tour sull'onda del grandissimo successo dei suoi album The Kick Inside e Lion Heart. La gente vuole vederla dal vivo. Kate, oltretutto, canta e danza contemporaneamente e questo crea non pochi problemi nel caso di una performance live, in anni in cui ancora non esistono apparecchiature sofisticate come quelle odierne. L'organizzazione che gravita intorno a Kate, nella quale confluiscono anche i suoi fratelli, diventa una vera e propria industria all'avanguardia, impiegando fra i primi in ambito musicale i radiomicrofoni, la tecnologia wireless per il tempo a dir poco avveniristica. Un tour è un evento estremamente complesso. Noi siamo qualcosa come 40 persone che ci lavorano. È un'impresa molto costosa, sicuramente in perdita da un punto di vista strettamente economico. Pensate a tutto quello che c'è intorno, gli spostamenti, gli alberghi, poi la pubblicità. Non sono solo gli aspetti tecnici, ma è proprio il muovere tutta la macchina che è qualcosa di enorme. The Tour of Life di Kate Bush sta prendendo forma. I mesi dedicati alla sua organizzazione sono un periodo di lavoro febbrile. Dalle canzoni agli arrangiamenti, dalle coreografie ai costumi, Kate vuole avere tutto sotto controllo. Gli effetti speciali le interessano particolarmente. Le sue canzoni sono dei racconti, dei veri e propri film brevi, dove la scenografia diventa un elemento della narrazione, dove il fumo che inonda il palco e dal quale emerge la sua figura avvolta in abiti straordinari e stravaganti, crea un mondo fatto di magia e di sensazioni da vedere, oltre che da ascoltare. Sono ben 17 i cambi di coreografia e di costume che trasformano The Tour of Life in un evento senza precedenti, come ricorda John Bush, il fratello di Kate. Fu l'apice della realizzazione di quello per cui stavo lavorando da tanto tempo. Musicalmente, dal punto di vista tecnico, del suono della voce, gli effetti speciali, i costumi, la sua performance sul palco, tutto quello per cui non aveva dormito notti intere si materializzava su quel palco. E fu per lei un tributo grandissimo da parte del pubblico. Ci troviamo all'Arts Center di Poole, nel Dorset, sud dell'Inghilterra. È il 2 aprile 1979. Kate Bush sta ricevendo uno scroscio di applausi incontenibile. Il suo primo concerto ha appena avuto termine. Il fumo avvolge ancora il palco e le prime poltrone del teatro. La scenografia finale, che vede la cantante vestita come un fantasma per rievocare la figura di Catherine, protagonista di Wuthering Heights, ha mandato in visibilio il pubblico. Tutti la clamano, tutti la vogliono e lei deve continuare a ritornare sul palco. Ha solo 21 anni. Ma la sua tenacia e la sua determinazione le hanno fatto fare le scelte giuste e questo successo e questi applausi ora sono veramente tutti suoi. L'ultima data del tour all'Hammersmith Odeon di Londra, il 14 maggio 1979, viene ripresa dalla BBC e trasmessa con enorme successo. Kate è oramai considerata da tutti una diva, anzi, ancora meglio, una vera artista. Il suo terzo album, Never Forever, la vede ancora più coinvolta sotto tutti gli aspetti. Kate è particolarmente interessata alla produzione dei video delle sue canzoni. Rappresentano sicuramente il miglior mezzo espressivo per lei che è un'artista visiva, oltre che una cantante. Perfezionista maniacale com'è, ha in questa occasione una gratificazione personale molto speciale. L'uscita del suo singolo Army Dreamers, storia di una mamma che si lamenta dell'uccisione inutile di suo figlio durante le manovre militari, le dà la possibilità di realizzare per la prima volta un video che la soddisfa appieno. È il mio video che più si avvicina all'idea di un piccolo film. Ed è stato per me un piacere particolare vedere che le mie idee si adattavano perfettamente alle immagini. È stata una cosa emozionante. Ritengo che sia la prima volta che una cosa che faccio mi porti a sedermi e dire «mi piace», forse è l'unica. Tutte le altre cose che ho fatto fino a questo momento, no, se mi siedo e le osservo dico «oh, guarda lì, quella cosa è proprio fuori posto». Sì, questo video sono particolarmente soddisfatta di averlo fatto. Con Army Dreamers si era preso un bel rischio perché a quel tempo la gente pensava che le cantanti pop non dovessero essere coinvolte con la politica o la filosofia o quant'altro. Ma lei ha sempre fatto quello che voleva. John Bush, fratello di Kate e suo stretto collaboratore, sottolinea ancora una volta l'intraprendenza e lo spirito libero di sua sorella. che ormai è pronta per il grande salto. Il suo album successivo, The Dreaming, se lo produce da sola. Ha 24 anni, ma le piace fare di testa sua. In fondo ha già dimostrato ampiamente di sapere bene cosa fa. Quando ha pestato i piedi perché il suo singolo di esordio fosse Wuthering Heights, andando contro tutti e tutto. Quando ha voluto fortemente realizzare un tour che fosse uno spettacolo vero e proprio. Quando ha vestito i panni di una soldatessa, madre di un caduto, invece di quelli più comodi di una star. In ogni occasione Kate sembra sapere bene quello che vuole e quello che fa. Il suo album successivo, Hounds of Love, del 1985, ha un successo tale da rubare addirittura la prima posizione nelle classifiche inglesi a Like a Virgin di Madonna. Una grande vittoria per Kate, ma mai grande quanto la sua felicità di poter cantare Running Up That Hill, uno dei brani di maggior successo dell'album, con colui che ha rappresentato per lei l'inizio di tutto, David Gilmour. C'è una costante nella produzione artistica di Kate Bush che colpisce, specialmente pensando all'epoca di cui stiamo parlando. La cantante realizza il video di quasi tutte le sue canzoni. È intuitiva la motivazione. Kate è un'artista completa, mentre canta, balla, recita, utilizza scenografie stravaganti, indossa abiti che sono più che altro costumi di scena. Come sostiene lei, più che cantare una canzone, racconta una storia. Quando ho iniziato a cantare, ero molto influenzata dalla danza. Anche grazie alle lezioni di Lindsay Kemp. A quel tempo non c'era tanto l'abitudine di utilizzare la danza nella discografia. Era un modo inconsueto di mostrare le cose. Abbinando la danza alle canzoni, era indispensabile realizzare dei video. Io li ho sempre concepiti come dei brevi film. Devo dire che ci sono molti video in giro che non sono per niente interessanti. E io che sono affascinata dai film, trovo che il modo migliore di realizzare un video promozionale di un disco sia di trattarlo come se fosse un cortometraggio. Forse uno dei video più belli di Kate è quello di una delle sue canzoni più note, Babushka. La storia che viene raccontata è quella di una donna che, volendo mettere alla prova la fedeltà del marito, gli scrive dei bigliettini come se fosse una ragazza più giovane e molto più sensuale e trasgressiva. L'uomo resta affascinato da questa ragazza, Babushka, perché gli ricorda sua moglie da giovane e incontrandola scoprirà che si tratta proprio di lei. Kate è fantastica nel ruolo della moglie che prima interagisce con un contrabbasso, la rappresentazione ironica del marito, e poi balla in abiti succinti nel ruolo della sua invenzione letteraria, Babushka. She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made the worst move. She sent him 70 letters. He received them with a strange delight, just like his wife. But how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was. I magnifici destini. I magnifici destini. Un uomo, solo e sconfitto, canta tutta la sua disperazione per avere fallito, per non essere riuscito nel suo intento, ma sopraggiunge una voce femminile che lo invita a non arrendersi, una voce di speranza che lo sostiene e gli assicura che potrà farcela. Don't Give Up è una splendida canzone di uno dei più grandi interpreti della musica internazionale contemporanea, Peter Gabriel. Nel 1986 Gabriel scrive questo brano e chiama a duettare con lui la protagonista della nostra puntata di oggi dei Magnifici Destini, la magica e personalissima Kate Bush. Personaggio assolutamente al di fuori dagli schemi, grande artista completa, le cui capacità spaziano dalla composizione al canto magistrale, dalla danza alla regia. Kate è sicuramente lusingata dall'invito del famoso collega che conosce già da anni. La loro interpretazione e la bellezza del video, che li vede abbracciati per l'intera durata del brano sullo sfondo di una eclissi solare, porta questo brano ad essere una top ten nelle classifiche britanniche di quell'anno. Credo che sia stata la prima donna artista a realizzare intorno a sé una comunità creativa, a controllarla, a forgiarla. Kate non ha mai avuto paura di sperimentare, nel bene e nel male, e ha sempre avuto coraggio. Anche Peter Gabriel, che conosce bene Kate Bush, ne sottolinea il grande spirito innovatore, quel suo essere sempre diversa, una vera artista. Il loro duetto arriva in un periodo che vede Kate estremamente prolifica. In quello stesso anno esce The Whole Story, una compilation dei suoi più grandi successi remixati che le fa vincere il Best Female Solo Artist ai Brit Award del 1987. In our nominees for the Best British Female Artist of 1986. This is a really special award. A tradition started by Debbie Harry and Patti Smith, and it's the female artist. And this is the coming award. Kate Bush. I think that goes in there. This is great, thanks. I'd just like to thank all the people that are too numerous to mention by name. And to thank everyone that was kind enough to vote for me. Thanks a lot. Kate è da sempre affascinata dalla macchina da presa. I suoi video, come lei stessa dichiara più volte, raccontano delle storie. Il cinema non può che attirarla e lo fa attraverso uno dei film più sognanti e carichi di significato dell'epoca, Brasil di Terry Gilliam. Kate realizza una versione malinconica e particolarissima della canzone omonima di Ari Barroso. We're entertaining you. We stood beneath an amber moon and softly whispered some decent. We kissed and clung together. Dopo l'uscita di altri due album, Sensual World e The Red Shoes, nel 1993 Kate decide di prendersi un periodo di sosta. Sta pensando a una specie di anno sabbatico per riordinare le idee, ma poi le cose prendono una piega diversa. Si sposa con il chitarrista Danny McIntosh e nel 1998 nasce il figlio Bertie. Io in realtà non ho mai voluto essere famosa. Volevo fare un album quando ero ragazzina, poi ho continuato perché ho avuto successo. Ma l'idea era fare qualcosa che mi piacesse e qualcosa di bello. Così, quando mi sono sposata e poi ho avuto mio figlio, avevo qualcosa di bello da fare e non ho avuto desiderio per alcuni anni di fare altro. Kate rimane lontana dal mondo della discografia per ben 12 anni. Molti teorizzano che abbia dei problemi, che voglia fare la preziosa, che abbia perso la sua vena creativa. In realtà si trasferisce semplicemente a vivere in campagna con marito e figlio e conduce una vita piuttosto ritirata. Il suo stile di vita viene valutato dai media probabilmente in maniera errata, ma lei non se ne preoccupa, proprio come fa con le interpretazioni spesso fantasiose che vengono fatte delle sue creazioni. L'interpretazione è una cosa bellissima. Voglio dire che un artista crea qualcosa con un'intenzione precisa, ma una volta che viene pubblicata diventa di tutti e sta alla gente a interpretarla. È come per un quadro. Quando lo guardi, nella maggior parte dei casi, non sai minimamente cosa pensava l'artista in quel momento o cosa intendesse trasmettere. Diventa un prodotto di massa. Non importa cosa tu intendessi fare, se provocare semplicemente o far sentire qualcosa, sono gli altri a dirti che cosa hai fatto. Dopo 12 anni di assenza, durante i quali si vocifera spesso di un suo nuovo lavoro particolarissimo, finalmente, nel 2005, Kate Bush torna a sorprendere il pubblico con un album decisamente eccentrico, Ariel, che conquista ottime posizioni nelle classifiche proprio grazie alla sua stravaganza. In esso sono contenute canzoni molto diverse tra loro, che spaziano dalla storia di Giovanna d'Arco a una ballata in stile rinascimentale dedicata al figlio Bertie. Il singolo di lancio dell'album, King of the Mountain, è dedicato a Elvis Presley, ma come è facilmente immaginabile trattandosi di Kate Bush, non è un semplice omaggio al divo di Memphis. Kate ipotizza che Elvis sia ancora vivo, fuggito alla grande fama per ritrovare nell'anonimato la sua giusta dimensione. Non è un caso che la cantante scelga proprio questo pezzo per il suo ritorno sulla scena pubblica. È quasi come se volesse spiegare il motivo della sua vita tanto riservata. Kate non crede che gli esseri umani siano nati per sopportare il peso di una notorietà tanto pesante. Forse sarà per questo che se ne sta tranquilla nella sua meravigliosa campagna inglese, componendo di tanto in tanto qualcuno dei suoi capolavori e facendosi travolgere solamente dalle note del suo magico pianoforte. See the storm rising. Could you see the guy who was just